Stanca serra da Samuro, va a tasa sa perra perra, si su che lo vedi in terra, la ian serrato puro, stanca serra da Samuro, stanca serra da Baronesa di Dania, baronesa di Dania, procura de moderare, si non ho provvide mia, torra de sape in terra, torra de sape in terra. Da essa guerra comprata essa prepotenza chi incomincia sa pazienza in su popola mancare barone sa tirania procura de moderare procura de procura procura de procura procura de moderare procura Populon de sora, usto populon de sora, distirpare sos abusos, a terra sul malos usos, a terra su disputismo, a terra su disputismo. Guerra seguismo e guerra soppressore, custos tirannor minores, sprezzis umiliare, barone sa tirania, procura de moderare, procura de procura, procura de moderare, procura de moderare. Mirate che sta accendendo, mirate che sta accendendo, contrate voi su poco, mirate chi no è il gioco, chissà cosa andate vera, chissà cosa andate vera. Però mirate, mirate, chissà se era minetta una temporale, zente cusi già da male, ascoltate sa oghe mia, procura de moderare, barone spero barò, barone spero barò, barone sa tira mia, barone spero barò, barone spero barò. Povero de Sarbida, oh povero de Sarbida, tribagliate, tribagliate, promante ne rincitate, certo scador de stalla, poi da una zappalla, poi da una zappalla, poi... Sile ansurano e pensa sere manzano solamente a ingrassare barone sa tirania procura de moderare procura de procura procura de moderare procura de procura procura de procura. Godoi di famiglia, de godoi di famiglia, san parti di usa Sardigna, in una maniera indigna, si su ne batta cupida, si su ne batta cupida, dividi. Dividido sa salvita sa in santi gazzeghedave però sa presente dave e lu pensa remediare barone sa tirania procura de moderare procura de procura procura de moderare procura de procura procura de procura, procura, de procura.